Ad alta voce, Elia Shilton legge Le linee d'ombra, dal libro The Shadow of Lines di Amitav Ghosh, copyright 1988, tutti i diritti riservati. Traduzione di Anna Natotti. Sedicesima puntata. Una sera May e io uscimmo per una passeggiata. La condussi giù per Southend Avenue, verso Gole Park, un po' perché le volevo mostrare il nostro vecchio appartamento, un po' perché volevo dare una lezione a Montu. A scuola mi ero vantato della nostra ospite e lui aveva riso e si era rifiutato di credermi. Lungo la strada incontrammo l'uomo del cotone. Come al solito stava pizzicando lo strumento che usava per il suo lavoro. Lo strumento ha una sola corda, simile a un arco molto lungo con il quale sprimacciava i materassi e le trapunte vecchie. May rimase incantata quando lo vide e mi chiese che cosa fosse quello strumento. Stavo cercando una risposta quando lei disse: «È una specie di arpa, vero?» Io non sapevo che cosa fosse un'arpa, ma mi sembrava che lei desiderasse tanto una conferma che annuì. Si rallegrò di aver indovinato. «Per favore», mi disse, «pensi di potergli chiedere di fermarsi e di suonare un po' per noi?» Non avevo scelta. Lo raggiunsi e gli dissi: «Questa signora straniera desidera sentire il suono della tua macchina. Puoi sederti un momento sul marciapiede e suonarlo un pochino?» Restò di stucco, ma acconsentì. Si accucciò sul lato della strada e pizzicò diligentemente la corda. Restammo per un po' ad ascoltare quei suoni ottusi, monotoni. May era piuttosto delusa. «È uno strumento assai limitato, non ti pare?» mi disse. Comunque diede 5 rupie all'uomo del cotone che si allontanò strimpellando allegramente. Non ricordo se alla fine arrivammo a Gole Park né se riuscì a mettere a segno un punto con Montu. Ricordo però che al ritorno a casa scoprimmo che l'uomo del cotone era già stato lì e aveva detto ai miei genitori dell'incontro con me e May. Mio padre aveva riso così tanto che gli era venuto il singhiozzo. Gli lanciai dei muti messaggi affinché si controllasse, ma fu inutile. Il mio non era più un segreto. Temevo che May si sarebbe arrabbiata con me, che non mi avrebbe più permesso di stare nella sua camera. Invece non se la prese. Si limitò a stringere i suoi occhi blu, mi scompigliò i capelli e disse: «E così ti sei preso gioco di me?» Mi conquistò. Anni dopo, quando raccontai a Ayla la storia dell'uomo del cotone, arricciò il naso e disse: «È proprio da lei. Persino a Londra conserva quell'espressione attonita, un po' come quelle brave donne che arrivano dalle piccole città con un biglietto di andata e ritorno per il fine settimana». Non era assolutamente ciò che avevo inteso dire. A me sembrava che la curiosità di May traesse origine da una specie di innocenza, un'innocenza che la rendeva diversa da tutte le donne che conoscevo. Non era infatti l'innocenza che nasce dall'ignoranza, bensì un'innocenza schietta, naturale, che non avevo mai trovato prima in una donna, perché tra le donne che conoscevo, mia madre e le mie zie, per esempio, nessuna, non importa quanto vivesse segregata, era del tutto immune da quella mondanità particolare, manipolatoria, che deriva dall'avere a che fare con una famiglia numerosa, un tratto che in ciascuna di loro sembrava crescere in proporzione al proprio livello di segregazione. Spesso, soprattutto nei primi giorni della sua visita, May mi portava con sé quando usciva insieme a Tridib. Una mattina, Tridib ci portò con la sua vecchia Studebaker al Victoria Memorial, che May desiderava moltissimo vedere. Fu May a insistere perché andassi con loro. Naturalmente ne ero felice. Non c'era niente che mi piacesse di più che mangiare ciate gelato al Victoria Memorial. Durante il tragitto, sporgendomi oltre il sedile anteriore, elencai a May tutte le buone cose che avrebbe potuto mangiare una volta là. All'angolo della Lower Circular Road le dissi di chiudere gli occhi. Mi assecondò e quando l'immenso edificio di marmo fu di fronte a noi, gridai: «May, guarda!» Ricordo che lei urlò «Mio Dio!» così forte che Tridib pigiò con forza sul freno e la Studebaker si fermò di colpo ai piedi dell'enorme statua nera della regina Vittoria. Restammo lì esterrefatti, come i Maharaja ai Durbar, le udienze reali. Tridib e io cominciamo a ridere perché da quella statua era nata il soprannome della madre di Ayla. Infatti stava seduta proprio così, con le braccia regalmente appoggiate sui braccioli della sedia, reggendo la tazza di tè come uno scettro. Cominciamo a raccontare a May quella facezia di famiglia, ma a un certo punto perdemmo il filo e nello stesso tempo notammo che si era girata, distogliendo gli occhi dalla statua e dall'edificio. Si accorse che la stavamo osservando e allora spalancò la portiera dicendo: «Forza, andiamo a dare un'occhiata a questo memorial». Salimmo verso la cancellata di ferro battuto e fissammo la bizzarra piccola cupola e i minareti in miniatura. May mi mise una mano sulla spalla e disse: «Andiamocene, per favore, non riesco a sopportarlo». Era pallidissima. Tridib le circondò le spalle con un braccio, la riaccompagnò alla macchina e l'aiutò a salire. Mi fece segno di salire e si rimise al volante. Toccò la chiave d'accensione con aria distratta, poi lasciò cadere la mano e si volse a guardare May. Rannicchiata al suo posto, fissava il cruscotto con uno sguardo privo d'espressione. Tridib allungò una mano e, prendendole il mento con gesto protettivo, la costrinse a girarsi verso di lui. «May», sussurrò, «che cosa succede? May!» Stringeva i denti senza guardarlo. «Che cosa ti succede? Dimmelo!» «Non dovrebbe essere qui!» esplose lei. «È una violenza, un'oscenità!» Tridib rise e le fece alzare il viso. Adesso gli occhi di May erano spalancati e lo fissavano. «No, non è vero!» disse lui. «Sono le nostre rovine. È ciò che cercavamo!» Allora rise anche lei, posò la sua mano su quella di lui, la girò e ne baciò il palmo. «Sì, sono le rovine che fanno per noi», disse. A quel punto Tridib mi diede 5 rupie e mi disse di andare a mangiarmi quello che preferivo. Mi avrebbero aspettato. Perché ricordo questo episodio mentre ho dimenticato tante altre cose? Non lo so, forse per il modo in cui si guardavano o per come lui la accarezzò e lei gli baciò il palmo della mano, come se ci fosse un segreto tra di loro di cui io ero destinato a restare all'oscuro per sempre. Ero geloso, dolorosamente geloso, come solo un bambino può esserlo, perché capire Tridib era sempre stato un mio privilegio esclusivo e quel giorno al Victoria Memorial capii di aver perduto quel privilegio. In un certo senso May me l'aveva strappato. Me lo ricordo anche perché quel giorno May rese quel luogo diverso ai miei occhi. Compresi che c'era qualcosa in quell'edificio, qualche altro significato, un significato insondabile e tuttavia reale, mio malgrado. Quel luogo diventò un'ossessione, Non potevo andarci senza sentire la voce di Tridib che sussurrava: «Queste sono le nostre rovine. Questo è il luogo in cui ci incontriamo». Mi interrogavo su quelle parole che risuonavano nella mia testa. Cercavo di decifrarle, di capire che cosa volessero dire, sempre inutilmente, fino a quel pomeriggio nel bar di Londra, quando May, guardando nello specchio, mi raccontò della lettera, la lettera in cui lui le aveva parlato di rovine. Una sera mio padre decise che May doveva vedere Diamond Harbor. Poiché era molto occupato, suggerì a Tridib di accompagnarci laggiù di domenica. Non ricordo la risposta di Tridib, ma sapevo che avrebbe preferito lasciarmi a casa. «Verrò!» gridai. «Non potete andare senza di me!» May allora mi strinse tra le braccia e disse: «Certo che verrai con noi. Non me lo sogno neppure di andarci senza di te!» Tridib non ebbe altra scelta. Quando venne a prenderci la domenica mattina, era di un umore strano, distratto. Pochi minuti dopo essere partiti da casa, svoltò nella strada sbagliata e non se ne accorse neppure. Se non gli avessi segnalato l'errore, saremmo arrivati a Dalhousie. «Vedi», si congratulò affettuosamente May, «senza di te non ci saremmo arrivati». Ben presto fummo fuori città. Procedevamo sferragliando alla massima velocità possibile per la vecchia Studebaker. Loro parlavano poco, così io raccontavo dei miei amici, Montu e gli altri, e di quello che combinavamo a scuola. Nessuno dei due mi prestava attenzione. May teneva la testa fuori dal finestrino, lasciando che l'aria le scompigliasse i capelli, con esclamazioni di entusiasmo per le risaie verdeggianti increspate dalla brezza. Tridib era occupato a tenere a bada il vecchio volante rigido della Studebaker. Dopo circa un'ora di viaggio, in un tratto in cui la strada corre alta sopra le risaie su un terrapieno artificiale, vedemmo dinanzi a noi una piccola sagoma indistinta che giaceva in mezzo alla strada. Tridib guidava a forte velocità e fu costretto a sterzare bruscamente. Me e io ci sporgemmo dai finestrini. Intravidi il corpo contratto e insanguinato di un animale e chiusi subito gli occhi. Sentii May che urlava: è un cane ancora vivo!» «Come?» disse Tridib, dando un'occhiata allo specchietto mentre l'auto riprendeva velocità. «Non l'ho visto!» «Non intendi fermare la macchina?» chiese May, alzando la voce. «Fermarmi?» disse Tridib sorpreso. «A che cosa servirebbe?» «È ancora vivo!» disse lei, sottolineando l'ultima parola. «Dobbiamo tornare indietro!» «Perché?» disse Tridib. «Non possiamo far nulla per lui!» L'auto accelerava sempre di più. May posò le mani in grembo e sprofondò nel sedile come se volesse dormire. La sua voce era calmissima quando si rivolse a Tridib per dire: «Se non fermi immediatamente, spalancherò la portiera». Con un'alzata di spalle, Tridib rallentò e tornò indietro. «Grazie», disse May, e gli appoggiò una mano sul braccio, ma lui la allontanò con uno sguardo impassibile. Fermò bruscamente la macchina a pochi metri dal cane. May saltò giù e attraversò la strada di corsa. Tridib e io la seguimmo. Il cane giaceva su un fianco, metà della schiena ad angolo retto con l'altra metà. Uggiolava e dalla bocca gli usciva un rivolo di sangue. «Ha la schiena spezzata», disse May con voce cupa. «Deve averlo investito un'auto». Si girò dall'altra parte con una smorfia mentre un tremito le scuoteva tutto il corpo. Poi sospirò profondamente, si costrinse a guardare di nuovo, si diresse verso la macchina e tornò con la grossa borsa di cuoio che portava sempre con sé. La aprì e ne estrasse un temperino e un fazzoletto. «Che cosa vuol fare?» gridai a Tridib terrorizzato. «Fermala! Non lasciarglielo fare!» La mano di Tridib scattò e le afferrò il polso, Non puoi farlo, è troppo pericoloso. Può ancora morderti. Probabilmente ha la rabbia. May liberò il braccio senza una parola. Avvolse il fazzoletto intorno alla mano sinistra e si inginocchiò accanto al cane. Quello digrignava i denti e cercava di sollevare la testa per morderla. Gli occhi iniettati di sangue ruotavano selvaggiamente. Tentò di dargli una piccola pacca sul muso, ma il cane sollevò il capo di scatto e si avventò sulla sua mano fasciata con le mascelle schiumanti. May riuscì a ritrarsi in tempo, ma i denti del cane strapparono un angolo del fazzoletto. May tremava ed era sudata in viso. Si accasciò, era senza fiato. Il cane lasciò ricadere la testa sul selciato, ma tenne gli occhi fissi su di lei e dalla profondità delle fauci emise un suono metallico, troppo debole per essere considerato un ringhio. «Lascia perdere», la supplicò Tridib, «non possiamo far nulla». Lo fulminò con un'occhiata. «Non potresti aiutarmi, sei capace solo di parole, non potresti fare qualcosa per una volta». Tridib si alzò in piedi e aggirò l'animale mettendosi in una posizione in cui non potesse vederlo. Poi si acquattò e gli si avvicinò lentamente come un granchio. Il cane lo udì e cercò di girare la testa, ma non riuscendoci prese a guaire debolmente. A quel punto Tridib lo afferrò, gli immobilizzò la testa e il collo con entrambe le mani e lo tenne bloccato a terra. Il cane dimenava selvaggiamente le zampe anteriori nel tentativo di liberarsi dalla presa di Tridib, ma ormai era debolissimo e Tridib riuscì nel suo tentativo senza troppi sforzi. May si chinò sul cane e gli serrò la bocca con la mano sinistra ancora avvolta nel fazzoletto lacerato. Poi con il pollice fece scattare il coltellino, tirò indietro la testa del cane, appoggiò la lama sulla giugulare e cominciò a tagliare la pelle. Il coltellino faceva un rumore monotono, simile a quello di una sega mentre tagliava il pelo ispido del cane. La metà anteriore del corpo si contorceva furiosamente e le zampe raspavano ai piedi di May. Infine May gli assestò con decisione il colpo finale e balzò indietro. Dall'incisione nel collo zampilò il sangue. Il corpo rattrappito si contorse disperatamente e infine rimase immobile. May lasciò cadere il coltellino e si alzò in piedi. Aveva mani e braccia sporche di sangue. Scivolò faticosamente lungo il terrapieno scosceso, raggiunse le risaie allagate e vi immerse le braccia. Restò laggiù a lungo, sciacquandosi le mani, le braccia e il viso. Tridib e io la aspettavamo seduti in macchina. Lei si inerpicò fino alla strada, risalì in macchina, chiuse delicatamente la portiera e disse: «Mi dispiace». Cercava di essere disinvolta e gentile, ma non riusciva a nascondere la tensione della voce. Mentre Tridib metteva in moto, lei disse: «Adesso è fatta. Andiamo a vedere il vostro porto». Senza guardarla, Tridib disse: «Non dovresti scusarti. Hai fatto quello che era giusto fare». Girò di nuovo la chiavetta d'accensione e quando la macchina cominciò a sferragliare, aggiunse: «Voglio che tu mi prometta una cosa». «Che cosa?» disse May con aria frivola. «Che non ucciderò altri cani moribondi». «No, no», disse lui sorridendo. Alzò il mento facendo scorrere l'indice lungo il collo come un barbiere che affila il rasoio. «Prometti che lo farai anche per me, se dovessi averne bisogno». Credo che lei, per quanto turbata, abbia riso. Rientrammo a Calcutta all'imbrunire. Tridib mi accompagnò fino al cancello di casa e mi disse: «Di ai tuoi genitori che io e May ceniamo fuori. La accompagnerò a casa più tardi». «Adesso anch'io ho bisogno di un caffè», disse May. «Per oggi ho digiunato abbastanza». Andò al banco e fece ritorno con una tazza di caffè e un panino. Andammo in quella loro vecchia casa, riprese sorseggiando il caffè e guardandomi nello specchio. Andammo direttamente nella sua stanza. Era la prima volta che stavamo veramente soli noi due. Tridib accese la luce e rimase in mezzo alla stanza guardandomi. Era una camera stranamente monacale, una semplice lampadina sul pavimento, pile di libri ammucchiati come giornali vecchi, qua e là un paio di stuoie e cuscini. Nulla che facesse pensare che un uomo adulto potesse cercarvi ristoro. Tridib si avvicinò alla finestra e si diede un grande affare per aprirla, armeggiando con la maniglia, aprendola e richiudendola di nuovo. Poi si girò. Sembrava un ragazzo con quel viso minuto, spigoloso, i capelli corti e gli occhi neri lucenti. Aveva un'espressione contrita mentre cercava di dirmi qualcosa a proposito di quanto aveva sperato. Io non avevo niente da dire. Mi avvicinai a lui e gli misi le mani sulle spalle. Non era molto più alto di me e restammo a fissarci per un tempo lunghissimo. Era terribilmente timido, davvero disperatamente timido. Voleva dire qualcosa a proposito dell'amore o cose del genere. Io glielo impedii, non volevo sentirne parlare. «E tu?» dissi io. Tirò fuori dalla tazza il cucchiaio di plastica e se lo rigirò tra le dita. «Io?» disse lei. «Eri innamorata di lui?» «Non lo so, come potrei saperlo? Che diritto hai di chiedermelo? Che cosa credi che abbia chiesto a me stessa negli ultimi 17 anni? Non so neppure se ci fu qualcosa di reale, se ero innamorata di lui o soltanto affascinata da quell'aura di sconfitta che lo circondava. Non so se tutto ciò che accadde dopo fu colpa mia, se mi sarei comportata in un altro modo, se lo avessi amato davvero. Che cosa credi che abbia fatto da allora, se non convivere con quel senso di colpa? Non lo so. Non lo so come potrei saperlo. Ci fu così poco tempo e accaddero tante cose. Io ero talmente giovane, non capivo che cosa mi stesse succedendo. È così? Distolse lo sguardo e io non potei vedere i suoi occhi neppure nello specchio. Tutto quello che ricordo è lui che mi dice: sei il mio amore, il mio unico vero amore. Il mio amore è venuto dall'altra parte del mare. Che cosa posso fare per tenerti con me? Ma è soltanto un bisbiglio. Prese i manifesti e le scatole per la colletta e si alzò in piedi. Prendilo tu, mi disse indicando il panino che non aveva toccato. Incartatelo e portatelo a casa. Io devo andare, è tardi, devo andare a una riunione e poi devo consegnare tutto questo denaro. Uscimmo dal bar insieme e camminammo in silenzio. Adesso era impacciata, a disagio con me, e non appena fummo in mezzo alla folla di Regent Street, allungò il passo lasciandomi indietro. La raggiunsi all'ingresso della metropolitana. Si fermò a guardarmi. Le due scatole piene di monete tintinnavano nelle sue mani. Un piccolo assurdo sorriso di scusa e si disegnava in viso ogni volta che i manifesti arrotolati sbattevano nelle costole della gente che sciamava dietro di lei. Sembrava preoccupata e distratta, ma la luce accendeva i suoi occhi blu e il vento le scompigliava i capelli striati di grigio che le ricadevano sul viso, rendendola istantaneamente più giovane, assai più somigliante a quella May verso la quale avevo alzato gli occhi molti anni prima a Lovra Station. «Non so perché ti ho raccontato tutto ciò», mi disse quando la raggiunsi. «Non l'avevo mai raccontato a nessuno prima d'ora». «Ovviamente no», dissi. «Non c'era nessun altro a cui tu potessi raccontarlo. Nessuno conosceva Tridib come lo conoscevo io». Le scivolò un manifesto, io lo raccolsi e glielo infilai di nuovo sotto il braccio. «Bene», mi disse nervosamente, «devo andare, sono in ritardo, probabilmente la riunione è già iniziata. Aspetta!» Dovetti schiarirmi la voce prima di poter continuare. «May», dissi, «quanto a ieri sera sono davvero spiacente. Non so che altro dire». «Va bene», disse con tono burbero. «Ero un po' sgomenta, ma non realmente offesa, non molto in ogni caso. ero meravigliata per la verità che nessuno pensasse mai a me in quel modo. Davvero? Sì, davvero, disse sorridendo. Mi strinse la mano, le monete risuonarono nel salvadanaio ed era già sparita.